Bonelli, da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani in regia. Ripartiamo dunque dalla preoccupazione, l'isolamento legato all'epidemia del Covid, ma con un taglio particolare, un po' preoccupante in realtà, ma come sentiremo anche con delle considerazioni interessanti che riguardano la salute. Insomma, con l'isolamento aumenta il consumo di alcol. Alcol che porta istituti europei di sanità pubblica a preoccuparsene, ad avviare un'indagine anonima e gratuita, proprio per studiare il fenomeno. Promotori di questa iniziativa sono l'Università di Dresda, l'Ospedale di Barcellona. Ce ne parla Emanuele Scafato, direttore del Centro OMS per la ricerca e la promozione della salute sull'alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, al microfono di Rosanna Magnano. Il problema dell'isolamento chiaramente ha spinto le persone a cambiare dei comportamenti, le abitudini alimentari e tra queste anche ovviamente quelle del bere. Le persone, più che acquistarli diciamo nei supermercati, è stata sollecitata dai canali online, dalla vendita online, ma anche e soprattutto con l'home delivery. È chiaro che tutto ciò ha posto delle grosse difficoltà, soprattutto per chi già consumatore dannoso, rischioso, lo era già da prima del Covid, e quindi ovviamente ha messo in difficoltà anche numerose famiglie che si sono ritrovati con persone che magari sotto l'influenza dell'alcol possono aver agito con maggiore frequenza abitudini tra virgolette negative, come maltrattamento ai minori o al coniuge, lì dove non episodi di violenza domestica. Ci sono paesi più a rischio? Pensiamo a tutte le intossicazioni alcoliche tipiche proprio delle popolazioni nord europee, anglosassoni, scandinave, dove si beve in funzione degli effetti che questo può fare. In Italia il discorso è un po' più concentrato sul consumo eccessivo, magari quotidiano, dove manca la consapevolezza che si danneggia l'organismo, però sostanzialmente poi il problema comune è che si naviga per un mare che è praticamente un mare alcolico. Avete un progetto di monitoraggio in diversi paesi europei. Come funzionerà? Che obiettivi si propone? Sì, i principali organismi di ricerca di salute pubblica, tra i quali l'Istituto Superiore di Sanità, hanno aderito appunto a questa iniziativa dell'Università di Dresda e dell'Hospital Clinic di Barcellona sulla rilevazione appunto dell'effetto del coronavirus sul consumo di alcol. Siccome abbiamo l'evidenza come ricercatori in tutta Europa, sono 18 le nazioni che aderiscono, che questo problema sia stato esasperato dall'isolamento e soprattutto dall'aggressività del marketing di determinati settori che hanno, impropriamente diffuso anche delle notizie che vengono identificate come fake news. Molti sono stati indotti a ritenere che si potesse fare prevenzione. In Italia anche ci sono state delle indicazioni rispetto appunto al potere disinfettante o igienizzante di alcune bevande alcoliche, ci sono state delle polemiche anche, però la cosa importante da dire è che l'alcol, così come abbiamo organizzato con l'OMS una lotta alle fake news, abbiamo appunto definito che l'alcol non fa mai bene, diminuisce le difese immunitarie e quindi facilita anche le infezioni polmonari, soprattutto virali. Il periodo è duro, ovviamente. Senza essere estremisti, pur nel rigore, che cosa possiamo dire? Ma assolutamente, secondo una modalità mediterranea, se una persona consuma un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica preferita, che possa essere il vino o la birra, durante, i pasti, questo dimezza l'alcolemia e quindi non ha quell'impatto che normalmente invece ha il binge drinking, il bere per ubriacarsi, oppure il consumo eccessivo con il quale purtroppo ci siamo dovuti confrontare e soprattutto le forze dell'ordine si sono dovute confrontare con persone che non rispettavano le norme e che quindi andavano magari in giro alla guida oppure nei supermercati senza mascherine e senza precauzioni. Italia ed Europa, Europa e Italia, la trattativa sul MES, naturalmente tutto quello che riguarda le misure necessarie per sostenere la crisi, per aiutare la ripresa. Ovviamente parliamo del rapporto Italia-Europa, ma tutti i paesi, tutti i 27 sono parecchio preoccupati e sensibili al tema, ciascuno nelle proprie diversità. La scorsa settimana abbiamo sentito il governo, quindi Conte, abbiamo sentito in particolare le opposizioni di destra, Meloni e Salvini. Ecco, Meloni in particolare, lo ricordate, parlava della trappola per topi verso la quale a suo dire il governo si sta facendo cacciare nelle trattative sul MES. Questa settimana qui a Radio 24 abbiamo avuto alcuni ospiti. Il primo, Silvio Berlusconi. Da un po' che, come dire, non era con noi, il leader storico di Forza Italia segna la sua rotta rispetto a Meloni e Salvini, lo fa partendo dalle critiche al governo Conte sulla fase 2. Non mi convince affatto questa impostazione della fase 2, che mi pare molto confusa, mi pare incerta, piena di contraddizioni. Se c'è una cosa che fa male alle persone e alle imprese è proprio l'incertezza. Noi rappresentiamo con orgoglio e coerenza in Italia il Partito Popolare Europeo, dice Berlusconi, la maggiore famiglia politica d'Europa. Siamo lontani dal sovranismo. Sentiamo quanto. Obiettivamente non mi sento di dare un giudizio così severo sull'Europa. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia, è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti, che sono forti in alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa. Ma direi il sistema Europa, dopo qualche incertezza iniziale che io per primo ho condannato, sta rispondendo all'emergenza meglio di quanto abbia fatto il nostro governo. Questo naturalmente non cancella il fatto che, come dice Berlusconi, la critica da parte sua per il governo Conte è ferma, pur nell'ambito di una costante collaborazione istituzionale. Un conto è la collaborazione istituzionale nell'emergenza, che noi abbiamo sempre garantito dal primo giorno e continueremo ad assicurare all'esecutivo in carica. Un altro conto è un sostegno politico al presidente Conte e al suo governo, per il quale non vi sono e non vi saranno mai le condizioni. Il nostro è l'atteggiamento di un'opposizione responsabile, ma che non cessa di essere opposizione. E infatti noi siamo molto critici sul modo nel quale il governo sta gestendo questa fase, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza economica e le difficoltà in cui si trovano cittadini e imprese. Prima di cambiare ospite, sentiamo ancora Silvio Berlusconi su riapertura e famiglie. Non è sano per un bambino, per un adolescente rimanere chiuso in casa, essere sottratto alla frequentazione dei suoi coetanei, e la didattica anche viene danneggiata certamente da questa situazione. A ciò bisogna aggiungere il disagio di molte famiglie che, ricominciando a lavorare, non sanno a chi affidare i loro figli minori. Tuttavia, mi rendo conto del fatto che occorre molta, molta prudenza. La scuola è un luogo ideale di contagio e il distanziamento tra un ragazzo e l'altro, un bambino e l'altro, negli istituti scolari è molto difficile, soprattutto per i più piccoli, che poi a loro volta possono infettare gli adulti e gli anziani tornando in famiglia. È un tema sul quale io dico dobbiamo affidarci del parere dei sanitari. Mi lasci dire però che una cosa è davvero intollerabile, ed è questa incertezza che si è diffusa su tutto il futuro. Per molte famiglie questo è il danno più grave. E adesso invece sul ruolo dell'Europa nella politica e nell'economia italiana in questa fase di crisi è intervenuto anche l'ex premier Enrico Letta, così come Berlusconi che abbiamo appena sentito. Sono stati ospiti di Simone Spezia e Maria Latella di Buon Mattino. Sentiamo allora Letta su Fitch. Stanotte Fitch, una delle agenzie di rating, ha dato una brutta notizia, cioè ha dato un downgrade all'Italia. Se non ci fosse l'Europa, che agisce ogni giorno con la Banca Centrale Europea che compra per miliardi titoli del nostro debito, oggi noi saremmo sostanzialmente colpiti e affondati. Gestione della crisi e critiche all'Europa 27. Enrico Letta chiede ai leader europei di cogliere questa crisi per inventare in Europa un meccanismo di gestione delle crisi che sappia anche pensare, anticipare, proiettarci collettivamente su quello che accade e su quello che potrebbe accadere. Così come questa pandemia, che non è arrivata dal nulla e nei confronti dei quali non siamo stati capaci, sarà il caso di dirlo, di anticiparne gli effetti. Enrico Letta. Penso che sia una vicenda che ha messo a durissima prova la capacità della politica di pensare lungo e strategico dovunque. Io in questo caso mi sento di difendere i leader europei. A chi pensa che hanno gestito male le cose, li invito a guardare un attimo come si sono comportati tre grandi paesi del mondo guidati da Trump, da Bolsonaro e da Boris Johnson. Francamente mi sembra che tutti i leader europei hanno dimostrato molta maggiore saggezza rispetto a questi. In sintesi, io vorrei che i leader europei discutessero tra loro di come dare mandato a livello europeo a un organismo emergenziale che sia in grado di coordinare questi sforzi e di fare questa riflessione di pensiero strategico, cosa che fino adesso non sta avvenendo, perché in Europa purtroppo c'è sempre la stessa contraddizione. Si chiede ma l'Europa cosa fa, e poi non si danno poteri all'Europa sufficienti per fare, perché ognuno se li vuole tenere a casa sua. Grazie dunque anche a Enrico Letta, e adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e ripartiamo parlando di turismo. Europa, Europa. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano che realizza con me questa trasmissione, da Roberta Frisani in regia. Come vi ho anticipato, parliamo di turismo, un settore che vale l'11% del PIL globale europeo e che subirà una contrazione stimata di circa il 70% nella stagione alle porte. Allora, cosa farà l'Europa? Agirà con un piano comune o ciascuno di fatto farà per sé? La Commissione UE ha messo a punto delle linee guida che dovrebbero essere già pubblicate il 13 maggio, mentre i ministri del turismo si sono incontrati il 27 aprile scorso per cominciare a delineare una strategia comune, con risultati a dir la verità poco incoraggianti. Silvia Bernardi. Dopo aver riaperto i paesi europei ai lavoratori e ai cittadini, bisognerà riaprirli ai turisti, dal momento che l'estate è alle porte, almeno ai turisti domestici, in attesa del ritorno nel 2021, si spera, degli stranieri di una libera circolazione. Sul tavolo ci sono molti punti interrogativi e più di qualche incertezza. Nei giorni scorsi abbiamo visto passare i rendering con le simulazioni dei box in plexiglass per le spiagge italiane, simbolo di un comparto che nell'immediato deve cambiare molto. E allora cosa farà l'Europa? Avrà un piano comune o ogni paese farà per sé? La Commissione europea sta preparando delle linee guida su come far ripartire il turismo in modo sicuro quest'estate. Le raccomandazioni dovrebbero essere pubblicate entro il 13 maggio, riferisce l'Osservatorio europeo. Il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha riconosciuto che il turismo è stato il primo settore colpito dal coronavirus e che sarà probabilmente il più lento a riprendersi dalla crisi. Oltre a fornire sicurezza attraverso finanziamenti a breve termine, il commissario ha affermato che il turismo dovrebbe beneficiare ampiamente anche dei piani di ripresa della crisi, che saranno finanziati attraverso il prossimo bilancio europeo a lungo termine, quello del 2021-2027. La nostra risposta si iscrive in due battute. Innanzitutto, primo, superare il problema di liquidità per cercare di liberare al massimo a livello della Commissione degli Stati membri quanto necessario. E poi noi dobbiamo impegnarci al più presto ad una riforma del settore europeo. Ne abbiamo già parlato, questo è il momento giusto per ridare ottimismo, per reinventare quello che il comparto deve fare. Il commissario ha anche aggiunto che l'obiettivo finale è quello di riformare e reinventare il settore del turismo e ha proposto di tenere un vertice europeo per il turismo sostenibile quest'autunno. Ma ci sono obiettivi più a breve termine, in primis quello di limitare i danni nell'immediato per un settore che vale l'11% del PIL europeo e che secondo alcune stime quest'anno potrebbe subire una contrazione del 70% e perdere 400 milioni di euro e 13 milioni di posti di lavoro, ma anche evitare che i paesi europei vadano ognuno per la propria strada. Il 27 aprile i ministri del del turismo dei paesi europei si sono incontrati in videoconferenza per cominciare a delineare una strategia comune, ma i risultati non sono stati troppo incoraggianti. Solo 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno firmato una dichiarazione per chiedere che una parte del piano europeo per la ripresa sia esplicitamente destinata al settore turistico e non è stata fissata una data per il prossimo incontro. Il timore è quindi che in mancanza di un coordinamento europeo i paesi preferiscano affidarsi a degli accordi bilaterali per creare dei corridoi turistici tra stati che presentano lo stesso livello di rischio per consentire ai loro cittadini di varcare le frontiere presentando un certificato medico. La Croazia, ad esempio, sta già negoziando accordi di questo tipo con la Repubblica Ceca e l'Austria. In questo caso, gli abitanti dei paesi più colpiti, come l'Italia, rischierebbero di essere esclusi. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo dunque sentito la situazione complessiva, una situazione che ovviamente è preoccupante per l'Italia, per tanti paesi, per l'Europa. Uno dei paesi dove naturalmente la preoccupazione è molto alta è il Portogallo, un paese, come dire, un paese tranquillo, un paese gentile, un paese dove molti anche nostri connazionali appunto vanno, frequentano per la cultura, per la straordinaria cultura della, appunto, di questo paese, ma anche per il turismo. Allora oggi ne parliamo con chi conosce bene il paese, perché è portoghese, perché è giornalista, e ringrazio di essere con noi, Claudia Garcia. Buongiorno Claudia. Buongiorno, buongiorno a voi. Claudia Garcia è corrispondente della TV portoghese SIC in Italia e anche collaboratrice di Rai Sport, Tutto Sport, altri giornali portoghesi. Insomma, una copertura direi capillare sulle due, sui due paesi. Allora, la prima domanda è: quanto pesa, Claudia, secondo te l'effetto appunto del mancato turismo che già c'è e quello che rischia di esserci per tutta l'estate per un paese come il Portogallo? Peserà un po' per tutta l'Europa, però in Portogallo ancora di più, perché il turismo è rappresentato nel 2019 8% del PIL portoghese e soprattutto l'economia di esportazione è basata molto sul turismo. Quindi i dati del 2019 che sono stati pubblicati proprio questa settimana ci dicono che 20% dell'esportazione portoghese del 2019 arriverà al turismo, quindi l'impatto sarà da quello che ci arriva proprio oggi di circa 40% in meno dei visitatori che abbiamo avuto nel 2019, quindi meno 7 milioni di entrate, e poi questo significa tantissimo anche per il commercio locale, alberghi. Diciamo, l'economia portoghese, la crescita dell'economia portoghese negli ultimi anni si è basata e ha puntato molto molto sul turismo, quindi arriverà il momento che il governo proprio dovrà creare qualcos'altro per fare crescere. Ecco, il turismo dunque, ci hai detto molto chiaramente, 20% davvero importante, un numero addirittura maggiore, anche se non in volume complessivo ma in percentuale, dell'Italia, quindi dei grandi paesi turistici d'Europa. Vorrei fare un passo indietro e chiederti come viene vissuta questa crisi in Portogallo. Allora, il Portogallo, diciamolo, ha in qualche modo seguito le emergenze sanitarie in Italia e immagino anche in Spagna. Sì, assolutamente, in Portogallo è arrivato un po' dopo, diciamo, la crisi adesso economica non è ancora tanto nella testa dei portoghesi perché arriverà adesso nei prossimi mesi, però la crisi e l'emergenza sanitaria, abbiamo la sensazione che in Portogallo comunque non sia stata così drammatica, perché comunque il tasso di mortalità è più basso di qua dall'Italia, al momento è inferiore al 4%, anche i ricoverati in terapia intensiva sono circa 400 persone, quando Portogallo avrebbe posto anche per circa 2000, se non sbaglio, quindi al momento la pressione ospedalare non è, diciamo, non è ai massimi, e sicuramente questo fa ben sperare, perché il paese proverà a ripartire già il 2 maggio con alcune riaperture, poi il 18 maggio con altre, soprattutto il commercio locale, i parrucchieri, tutto questo potranno riaprire già inizio maggio, al contrario qua dall'Italia. La gestione è stata fatta con più tempo perché è arrivato molto dopo dall'Italia e dalla Spagna, soprattutto quando è arrivato in Spagna, lì c'è stato proprio il campanello d'allarme, in Portogallo hanno chiuso immediatamente le frontiere. E anche per la sua posizione geografica, ma soprattutto credo anche per la densità popolazionale, che questa è molto importante, perché ecco, Portogallo ha 10 milioni di persone, no? Dimmi. Portogallo ha 10 milioni di persone, sono andato a vedere ovviamente un po' di dati, ho notato che la densità della popolazione è esattamente la metà di quella dell'Italia, sicuramente un fattore da non sottovalutare. Assolutamente, si paragona i 10 milioni di abitanti, che sono più o meno quelli della Lombardia, la Lombardia 420 abitanti per chilometro quadrato, circa 420, Portogallo 120 abitanti per chilometro quadrato, quindi da 3 volte in più. Questo fa tantissima differenza delle città e tutto, c'è la densità popolazionale, secondo me, in questa malattia, secondo me, secondo quello che ci hanno detto gli esperti in Portogallo, ha fatto molta differenza. Poi io credo che la coscienza delle persone è stata molto importante, lì non c'è stata mai bisogno proprio di una fiscalizzazione di polizia o addirittura di militare per strada. Cioè non ci sono le multe come da noi, o sì? Ci sono solo in casi estremi, quindi le persone che sono proprio in quarantena obbligatorie e vanno al supermercato, fanno cose che non possono fare, o delle persone che si ritrovano proprio in casi estremi, che hanno mentito dicendo che facevano questo e no, ma in generale l'approccio è molto diverso, è un approccio più di cosa stai facendo, torna a casa, tutto quanto, ma non c'è subito la sanzione. La sanzione, però lì devo dire che non si vede molta gente insieme per strada, perché comunque i bambini sono più per caso, nei giardini, ma anche nei giardini condominiali, che vedo qua in Italia comunque i bambini giocano insieme, cosa che non dovrebbero fare, perché se si chiudono le scuole non è per riprodurre la scuola poi nel condominio, e in Portogallo non lo fanno, anche se ovviamente capisco che qua dopo tante settimane di chiusura la gente è abbastanza stufa, però in generale l'approccio della popolazione è stato diverso, tanti hanno chiuso i negozi, superfici commerciali, ristoranti, anche prima che il governo decretasse questo obbligo, quindi la gente ha preferito chiudere per diciamo decisione sua. Ecco, quindi forse da una parte più paura, ma anche più dialogo con le istituzioni, ho capito bene? Sì, io credo più paura, e sicuramente hanno pensato che c'era molto meno gente, perché va meno gente in giro già subito, già da inizio marzo si vedeva pochissima gente in giro, anche prima delle misure, quindi i ristoranti e tutto quanto, hanno pensato, cioè arrivoliamoci subito al take away, e da lì è che poi è partito il decreto del governo. Lo stesso governo ha seguito il popolo, è stata la differenza principale. Il governo ha detto ok, adesso i ristoranti rimarranno aperti solo con take away, ma già prima erano organizzati con cartelli dicendo grazie al Covid-19 faremo solo take away. Quindi lì in Portogallo loro hanno permesso il take away, hanno permesso una serie di cose, quindi un'ora di passeggiata al giorno, corsa, un'ora di attività per bambini, perché già la popolazione si era adeguata a fare così. Conosco tante famiglie che già si erano messe in smart working, qua in Italia non tutte le aziende all'inizio hanno dato questa possibilità, ci è voluto molto tempo, le aziende hanno subito detto, quelle che potevano logicamente, ai suoi lavoratori, lavorati da casa, conosco intere relazioni di giornale che stanno tutti a casa, si sono organizzati, quindi poi il governo si è regolato, ma in realtà sono stati proprio i portoghesi a organizzarsi per primi. Grazie a Claudia Garcia che ci racconta appunto uno spaccato di Europa, del Portogallo, un paese che come avete sentito ha una sola frontiera, perché di fatto non è assolutamente un'isola ma è tutta una frontiera con la Spagna, dunque anche con una fortissima pressione dal vicino che ha gestito in maniera diversa la situazione. Grazie ancora a Claudia Garcia di essere stato con noi. Grazie a te. E allora è tutto per questa puntata di Europa Europa, come sempre ritrovate questa come tutte le trasmissioni di Radio 24 sul nostro sito www.radio24.it ovviamente, adesso GR24 e noi ci risentiamo la prossima settimana, un saluto.